Bentornati in Europa, parliamo oggi da Strasburgo di un tema di cui si discute da oltre 40 anni, 40 anni di dibattiti, 40 anni di iniziative, ma alla fine finalmente il Parlamento europeo è arrivato a mettere la parola fine a questo provvedimento con l'approvazione del brevetto europeo, però con alcuni distinguo. Ne parliamo oggi con Raffaele Baldassare, che è uno dei relatori a questa iniziativa parlamentare, relatore per l'Italia, insieme a altri due colleghi, Rafkai e Len. La relazione di Baldassare è stata approvata ieri con 481 voti a favore. Un successo per l'onorevole Baldassare, ma di meno per il governo italiano. Perché, onorevole, che succede? Ma perché in questo provvedimento, lungamente atteso dall'Europa, ma soprattutto al sistema delle imprese europee, l'Italia non partecipa. L'Italia ha scelto, insieme alla Spagna, di rimanere fuori dalla cooperazione rafforzata, cioè da uno strumento che è stato utilizzato da 25 paesi per andare avanti, aspettando gli esiti di un ricorso davanti alla Corte di Giustizia contro questo strumento. In realtà una polemica stupida, una polemica ingiustificata, che partiva dalla volontà di avere l'italiano fra le lingue, questo sistema inglese, tedesco e francese, sì. Per poi invece convergere sulla soluzione di avere solamente la lingua inglese. Una posizione di contestazione che non aiuta il sistema delle nostre imprese e che francamente non ha ragion d'essere, perché io sono un italiano, adoro la nostra lingua, considero l'italiano la lingua più bella del mondo, musicale, articolata, la lingua di Dante. Detto questo, le nostre imprese, le imprese italiane, depositano le richieste di brevetto nel 65% dei casi in inglese e chiedono che l'autorizzazione al brevetto, la registrazione al brevetto, nel 98% dei casi sia in inglese, quindi di fatto parliamo del nulla. In Europa il 45% delle imprese registra in inglese, il 39% in tedesco, perché i tedeschi registrano 32.000 brevetti su 62.000 dell'intera Europa, il 9% in francese e il 7% nelle restanti lingue. Noi siamo il sesto paese con 4.000 brevetti all'anno. Ora, una polemica assolutamente inutile che, una volta ormai approvato il brevetto, espone gli imprenditori italiani ad una piccoli e grandi, ad una doppia registrazione, cioè registrare presso l'ufficio europeo dei brevetti e vale in 25 stati e poi registrare in Italia perché valga in Italia. In più, se rimaniamo, continuiamo in Italia e Spagna, perché ricordiamo Italia, che, poi, che due, se vuole andare anche in Spagna, anche che in i due paesi rimasti fuori dal brevetto europeo sono l'Italia e la Spagna. Se poi vogliamo continuare in questa posizione, noi rimaniamo fuori anche dal Comitato Ristretto. Il Comitato Ristretto stabilisce l'entità della tassazione sui brevetti, perché si paga una tassa annuale per mantenere il brevetto, che verrà ridotta ed eliminata quasi per le piccole imprese, e la redistribuzione di queste risorse, che invece possono essere utilizzate per la ricerca e per l'innovazione di cui il nostro Paese ha assolutamente bisogno. Quindi una politica miope che io mi auguro venga corretta e che comunque né noi del PPE né gli altri italiani hanno seguito, perché abbiamo votato tutti a favore di questa direttiva. Quindi ci potrebbe essere anche un ravvedimento dell'Italia, che ha fatto ricorso alla Corte Europea, sì, se non erro. L'Italia ha fatto ricorso, dice, come dire, ritenendo che la cooperazione rafforzata, cioè una parte degli Stati, non l'unanimità, su un tema come questo del mercato interno non fosse possibile. L'Avvocato Generale dello Stato della Corte di Giustizia ha già detto che ha già consigliato la Corte di Giustizia di rigettare questo ricorso, ma il punto è sostanziale. Con questo brevetto noi avremo finalmente un brevetto che vale in 27 stati. I costi del brevetto, che oggi raggiungono i 30.000 euro per registrare il proprio brevetto in 13 paesi, un'impresa siciliana incorre in un costo di questo tipo, scenderanno a 4.000 euro, di cui appena 700 per i costi di traduzione. Ecco, ricordiamolo, il dato che è abbastanza diciamo impressionante: attualmente un'impresa che registra un brevetto paga, per avere una presenza in tutta Europa, 36.000 euro circa, da vostri studi presentati ieri in conferenza stampa, mentre avrebbe una riduzione, abbattimento dei costi sino a 4.725 euro, che si ridurrebbero ancora, secondo uno studio che presenta il Sole 24, 24 ore a 2380 nei prossimi anni. Prossimi 12 anni. Dove c'è sempre una doppia copia in inglese, perché si va verso l'English only. Dopo i prossimi 12 anni scende a 700 euro, 800, 1000 euro. Ecco, quindi questo facilita, feliciterà chiunque che abbia un'idea. Soprattutto andare... facilita le piccolissime imprese. Noi registriamo una situazione molto diffusa. L'imprenditore o l'artigiano che inventa qualcosa non ha la forza per brevettarla, vende prima ancora di brevettarla. Altri brevettano in Italia, magari in un paio di stati, e poi vendono la loro idea alle imprese più grandi. Invece tutto questo finalmente aiuta le imprese a brevettare, a produrre quel brevetto, eventualmente a continuare a svolgere azione di innovazione, e quindi è un aiuto indispensabile alle imprese che secondo i nostri conteggi consentirà già in primo risparmio annuale di 250 milioni di euro. E quindi sicuramente un fatto positivo, unitamente ad un'altra situazione: un'impresa italiana che registra in 6 paesi rischia di vedere in qualche modo contestato questo diritto e quindi deve fare causa in 5 paesi, con il rischio di avere sentenze differenti nei 5 paesi differenti. Oggi finalmente abbiamo un sistema giurisdizionale unico, un unico tribunale che fa un'unica sentenza che dice che i diritti che derivano da quel brevetto sono questi, in capo a questa azienda, e quella sentenza vale per tutti i 27 stati. Ecco, il tribunale dove verrà istituito? Il tribunale è stato scelto a Parigi, con sedi distaccate per quanto riguarda le materie, per esempio per quanto attiene alla farmaceutica a Londra, per quanto attiene alla meccanica a Monaco, e quella sarà la sede principale. Anche qui altro errore del governo italiano, perché nella fase di compromesso, pur di avere l'Italia nella cooperazione rafforzata, erano disponibili a darci il tribunale centrale. Fra l'altro a Milano c'è una sezione dei brevetti che è fra le più conosciute in Europa per essere molto competente, e Milano era la sede ideale per essere sede del tribunale europeo del brevetto. Purtroppo le solite vicende politiche in cui ci attardiamo ci hanno fatto perdere anche questa occasione. Ecco, mi sembra, diciamo, un fatto del tutto inusuale. Poi, avendo a che fare con un governo italiano tecnico, dovrebbe essere più semplice per i tecnici comprendere l'importanza del brevetto europeo. Sì. E invece anche da questa posizione il ministro tecnico dice: aspettiamo la sentenza. Spero, mi auguro che adesso non aspettino più la sentenza, che mi auguro seriamente, che è considerato anche il parere che dicevo, che riprendevo prima, e l'avvocato presso la Corte di Giustizia, avvocato generale presso la Corte di Giustizia, si decidano ad entrare in questa cooperazione rafforzata. Fra l'altro tutte le organizzazioni di categoria, Confindustria, Confartigianato, sono tutte su questa linea, sono tutte a favore del brevetto europeo e dell'ingresso dell'Italia nella cooperazione rafforzata. Ecco, quindi brevetto europeo unico. L'altra novità che interesserà i 25 paesi tranne l'Italia e la Spagna è che il Parlamento europeo coprirà i costi di registrazione. No, l'ufficio dei brevetti coprirà i costi di registrazione. In più sono previste una serie di misure a favore delle imprese. Facciamo un esempio: un'impresa italiana presenta la propria domanda in inglese, in italiano, sì, e sceglie l'inglese come lingua. Dopo 30 giorni l'ufficio dei brevetti gli risponde, dice sì, possiamo brevettarlo, ci presenti la domanda in inglese. L'impresa italiana fa tradurre in inglese, l'ufficio dei brevetti rimborsa i costi di traduzione. Ma non all'impresa italiana? All'impresa italiana. Ah, anche, sì. Anche se non fa parte del... Anche se non facciamo parte di quell'accordo, per fortuna le nostre imprese possono registrare in 25 paesi ed essere rimborsate. Insomma, quindi sarà più semplice avere un brevetto europeo. Molto più semplice. Attualmente l'Italia, lei diceva ieri in conferenza stampa, registra 4.000 brevetti l'anno. Potremmo fare molto di più. Dicevo prima, solo la Germania ne registra 32.000, e questo ci dà un'idea della differente dimensione del comparto dell'innovazione tedesco e della nostra invece. Bene, approfittiamo della sua presenza per affrontare anche altri temi che ci sono, sul tavolo del Parlamento Europeo in questi giorni, soprattutto sempre restando in termini economici, si parla in queste ore di bilancio europeo, l'approvazione del 2013. Si andrà al voto, è stato raggiunto l'accordo? Non ancora, abbiamo noi un valido difensore del Parlamento Europeo, nonché delle posizioni italiane, che è l'onorevole Lavia, Giovanni Lavia, che si occupa di questa vicenda. Io trovo paradossale che in un momento di crisi in cui c'è bisogno di più Europa, alcuni paesi ritengano di limitare il loro contributo all'Europa. Fra l'altro il bilancio europeo nasce dall'1% del PIL di tutti i paesi, e quindi diciamo un apporto veramente minimo. Considerate gli effetti che invece tutto questo provoca nei paesi in termini di ricerca, innovazione, di finanziamenti, di fondi di coesione. Lasciamo perdere poi come li utilizzano le regioni del sud, a cominciare dalla Sicilia, di fondo Horizon per la ricerca e l'innovazione, 80 miliardi dal 2014 al 2020, dell'agricoltura, 4 miliardi e mezzo l'anno di contributi diretti, oltre ai fondi FEOGA gestiti agli assessorati regionali, Dio sa che cosa succede. Tutto questo è Europa. Pensare di tagliare tutto questo è paradossale, ma alcuni stati più ricchi, che ritengono di dare troppo rispetto a quello che ricevono, ma anche l'Italia è un contribuente netto, cioè noi diamo 14 miliardi e ne riceviamo 9, potremmo prendere molti di più, per dire la verità, se fossimo capaci. Certamente. E quindi trovo tutto questo assurdo, ma frutto purtroppo del momento difficile che viviamo. Il vero problema è che al di là anche dei profeti che si susseguiranno in questa campagna elettorale in Italia e che diranno che la colpa è dell'Europa, è che i problemi italiani nascono dall'incapacità della politica italiana da 20 anni, destra e sinistra insieme, di fare le riforme profonde di cui questo paese ha bisogno, che sono in campo della produttività, in campo di innovazione, sono la liberalizzazione di molti settori della nostra economia, sono naturalmente la lotta alla criminalità e alla corruzione e al malaffare diffuso, sono una pubblica amministrazione che non risponde alle esigenze del mondo civile, del mondo delle imprese, del settore, diciamo, della società civile, e sono ritardi che hanno fatto perdere all'Italia decine di posizioni in termini di certamente competitività. Il prossimo governo avrà di fronte una marea di riforme da portare a termine, sì, altrimenti l'Italia anche la necessità del pareggio di bilancio che sarà difficile da raggiungere, visto la situazione economica in Italia non sembra migliorare negli ultimi mesi, anche nell'ultimo anno di governo Monti. Ma sa, lei conosce come me la situazione del nostro mezzogiorno, no? Ma quando io ancora vado in giro per le mie mio bacino elettorale, nel mio collegio, e trovo difficoltà a spiegare ai nostri agricoltori che o si mettono nei consorzi o fanno rete, o è difficile arrivare sui fuori grandi mercati. Quando continuo a dire inutilmente che forse l'agricoltura non è la produzione, perché il valore aggiunto è nella sua commercializzazione e nel riuscire a vendere fuori dall'Italia e fuori dalla Sicilia o dalla Puglia i propri prodotti. E quando continui ad avere ostacoli su tutto questo, quando hai una tassazione al 55% sulle imprese, quando gli altri paesi europei ce l'hanno al 30% come media, e come si fa ad immaginare di poter uscire dalla crisi o che le responsabilità siano solo di chi governa? È un problema diffuso, è un problema di classe dirigente. Una richiesta che arriva dalle imprese è certamente quello di sburocratizzare tutto il sistema per arrivare velocemente e ottenere sono finanziamenti anche europei. Io sono stato europei, relatore, e quindi ho fatto approvare la direttiva contro i ritardi di pagamento delle imprese. Entro il marzo 2013 l'Italia deve adottare questa direttiva che stabilisce che i debiti vanno pagati da parte della pubblica amministrazione in 30 giorni e nel campo della sanità in 60 giorni. Sarà una scommessa difficile per l'Italia. Lo so, ma non si può stare in Europa così, con sanità che paga in 1.000, 2.000, addirittura abbiamo scoperto che l'ASL di Napoli Centro paga dopo 4.000 giorni, cioè dopo 3 anni e mezzo, 4 anni. Cioè forse i pagamenti arrivano dopo la procedura concorsuale fallimentare. Quando si è nello stesso mercato unico in cui si muovono altre imprese che vengono pagate in 30 giorni e in 40 giorni, quindi le imprese italiane già tassate, già con una burocrazia asfissiante, già in condizioni difficili, devono anche stare sul mercato europeo e nel mercato mondiale con un termine termini di finanziamento assolutamente differente dalle altre. L'impresa ha bisogno di sapere entro quanto mi paghi, io devo investire, devo comprare materiale, devo assumere persone. Se non c'è questa certezza, manca la base principale. La causa del fallimento di un'impresa su quattro che fallisce è questa. C'è il paradosso di uno Stato che non paga i propri debiti e fa fallire le imprese. Il Paese ha bisogno di una profonda sistemata, non può andare avanti in questo modo, non è tollerabile tutto questo, per noi è diventato normale. Lei pensa, questa è una domanda diciamo diretta personale, lei pensa di tornare come parlamentare in Italia o di proseguire il suo lavoro qui in... Guardi, io trovo molto più entusiasmante e soddisfacente questa esperienza. Primo, perché lavoriamo nell'interesse del nostro paese. Secondo, perché lavoriamo senza condizionamenti ideologici e politici che hanno ridotto il Parlamento ad un'arena di scontri fra uno schieramento e l'altro. Qui spesso si converge perché il interesse principale, pur con naturali e del tutto comprensibili differenze di impostazione, è l'interesse del paese. E quindi se si deve votare il brevetto europeo lo votiamo noi e i socialisti, se si deve votare la direttiva sul ritardo delle imprese, della pubblica amministrazione per pagare imprese, si vota insieme, se si deve votare la PAC e chiedere cambiamenti rigorosi alla PAC a favore della nostra impresa, votiamo insieme. Cioè tutto questo si fa avendo a cuore l'interesse del paese. Giù invece, primo, qui c'è una capacità di coinvolgimento maggiore se si vuole lavorare, anche qui c'è chi non viene e quando non vieni non ti calcola nessuno, non hai nessun ruolo e certo, nessuna responsabilità, ma soprattutto c'è, come dire, la possibilità di incidere in maniera consistente con le proprie leggi, i propri regolamenti. L'83% delle leggi che vengono approvate nel Parlamento italiano vengono da Bruxelles. È solo un'attività di recepimento che svolge il Parlamento italiano. Anche l'intera riforma agraria e quindi, è totalmente certo, studiata, realizzata e costruita a quindi Bruxelles e poi esportata in Europa. Io trovo più entusiasmante questo. Il ruolo è siamo di meno, siamo appena 70 come italiani e noi del PDL 24-25, quindi hai un ruolo, sei maggiormente rappresentato, più forza e più capacità di stare sulle questioni concrete e meno inutili scontri che spesso poi fanno perdere di vista il problema e gli interessi dei cittadini. Io credo che oggi i cittadini, più che alla politica gridata e gli scontri, vogliano capire come usciamo da questa situazione. Chi ci fa uscire da questa situazione, con quali ricette, con quali proposte? E per dire la verità, nel dibattito italiano di questi giorni, di tutto questo non parla nessuno. Spero che la risposta arrivi prima del voto di febbraio. Me lo auguro, sarebbe drammatico andare a votare senza sapere che i candidati che ci sono, che cosa hanno in mente di fare. Chi avrà in mano la bacchetta magica, dobbiamo dire cosa che ci vuole fare in questo caso. Ma sa, se mi permetto, approfittando della sua ospitalità, in una regione come la sua, no? Dove hanno votato uno che è venuto a farsi a nuoto e ha dichiarato ci avete il sole, il mare, che bella terra, di cosa avete bisogno, e ne hanno votato al 20%, c'è poco da sperare. Perché nemmeno lì mi pare che ricette ne siano venute fuori. Non tante, però siccome la Sicilia è stata sempre un luogo di sperimentazione politica, questo mi spaventa molto. Questo è un risultato che a mio avviso si proietterà in tutto il resto della penisola nel prossimo voto di febbraio. Immagini in Italia un raggruppamento del 20% di deputati grillini che continuerà a dire i costi della politica sono il vero problema, quando avremo eliminato i costi della politica che vanno tagliati e vanno ridotti ci renderemo conto che il vero problema non è quello, sono 2.000 miliardi di debito pubblico e un paese che ha bisogno di uno scossone. E rispetto a tutto questo e alle riforme da fare, il comico genovese e i suoi adepti non mi pare che abbiano uno straccio di risposta. Bene, con questo chiudiamo questa pillola d'Europa con l'Arone Baldassare e speriamo di raccogliere, che l'Italia raccolga il suo invito di un Parlamento senza steccati che lavori su progetti e su argomenti seri. Ma come oggi ce ne sarebbe bisogno. Bene, grazie, grazie a presto. Voi.